Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e ben ritrovati. Vi dico subito che oggi insieme toccheremo un tema di cui di solito si preferisce non parlare. È un problema che interessa molti uomini, ma che spesso viene taciuto per paura, imbarazzo, vergogna. Parliamo di disfunzione erettile. E io ho pensato che fosse importante dedicare a questo disturbo un'intera puntata per diverse ragioni, ma soprattutto per, direi, sdoganarlo dalla convinzione che si tratti solo di un problema dell'apparato sessuale. E in realtà la situazione è molto più seria, perché nella maggior parte dei casi si tratta di un chiaro campanello d'allarme di patologie importanti, e mi riferisco alle malattie cardiovascolari o al diabete. Allora oggi, con l'aiuto dei nostri esperti, parleremo di prevenzione, parleremo di cura, ma soprattutto parleremo di coppia, perché la disfunzione erettile va affrontata insieme alla propria partner. Quindi, se state vivendo questo problema in prima persona o se siete compagni di uomini che ancora stanno cercando le parole e la forza per affrontarlo, chiamate 800 24 00 24, 349 238 6666, se invece preferite mandarci un messaggio. Oggi abbiamo in linea il professor Vincenzo Gentile, che è direttore del Dipartimento di Urologia del Policlinico Umberto I di Roma. Professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, grazie. In linea abbiamo anche il professor Bruno Giammusso, che è responsabile dell'unità operativa di andrologia dell'Università di Catania. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, due esperti pronti a rispondere alle vostre domande, ma anche a confrontarsi con Alessandra Faiella, che è tornata qua in studio a trovarci. Buongiorno. Ciao Alessandra. Ciao. Attrice, autrice di Autostimami, libro su ironia e autostima, edito del Sole 24 Ore, di cui abbiamo parlato, che oggi è qui in rappresentanza, direi, delle donne, a cui la Società Italiana di Andrologia quest'anno si rivolge e cerca di coinvolgere per affrontare il problema e farlo uscire dal silenzio e trovare quindi una soluzione. Quindi hai un grande ruolo oggi. Accidenti. Mi mette in soggezione questo ruolo. No, hai parlato bene dicendo che è un problema della coppia, no? E spesso nella coppia c'è questa difficoltà a comunicare, anche a raccontarsi i problemi, soprattutto da parte degli uomini, che tendono un pochino a chiudersi a riccio. E abbiamo, soprattutto su questi problemi, ma anche più banali, abbiamo vissuto un po' tutti questa cosa, no? Che lui si ammutolisce un po' incupito e lei gli chiede: ma cosa pensi? A cosa pensi? Magari lui non sta pensando a niente, cioè tabù, sì, una mongolfiera vuota, però. Allora parliamone. 824 0024, i nostri esperti sono a vostra disposizione sino a mezzogiorno. Direi che possiamo approfittare di loro per soprattutto cercare di far uscire questo problema dall'ombra, perché le soluzioni ci sono, si può fare prevenzione, quindi tranquillità, occupiamocene per non preoccuparcene. Una mela al giorno. Oggi è martedì e oggi finalmente si canta. Prevenzione in musica per cantarle e suonarle all'influenza A. Abbiamo scoperto che sotto molti camici batte un cuore da cantautore, da musicista o arrangiatore. E allora, dopo Virus H1N1 di Andrea Vitali con I Sulutumana, Un pugno al virus del nostro Alberto Pellai con Giovanni Paolo Fontana e Roberto De Luca, e No Panic degli Autobenga, alias il dottor Oreste Gentilini e Flavio Mazzoni, un altro gruppo scende in campo per la prevenzione con un nuovo brano che si intitola Lezione di prevenzione. Lo sentiamo e poi andiamo a conoscere gli autori. Questa è lezione di prevenzione, yeah. Lezione di prevenzione. Viene a lezione di prevenzione, yeah. Con la mia rima ti faccio prevenzione. Di partenza dell'influenza H1N1, stadio 6, è pandemia. Vuol dire casa tua è casa mia. Ascolta un po' queste mie parole per imparare a prevenire e a non favorire altro che aspirina. Senti qua, ti do io la rima. Evita le folle e gli spazi chiusi, riduce abbracci e diffusione, no. Anche se amici buoni, ricambia l'aria nella stanza. Vestiti caldo che non sei in vacanza. Meno un metro da sospetto, nessun contatto stretto, non uso il fazzoletto. Lo butti sempre dopo, ma nel cestino, non lasciarlo nel cassetto, no. Questa è lezione di prevenzione, come on. Lezione di prevenzione, viene a lezione di prevenzione, come on, come on. Allora, lezione di prevenzione scritta e suonata dal dottor Stefano Bruno, che è in studio con me. Dottor Bruno, buongiorno a tutti. Magnifico. Grazie, ci abbiamo messo del nostro. Ci avete messo il cuore e la passione, e a cantarla una stella emergente che sta già facendo impazzire i giovani, giovanissimi, Mafi, la protagonista. Grazie. Ciao Mafi, la protagonista ricciolina di quelli dell'intervallo e non solo. E i miei capelli sono inconfondibili ormai, ecco. C'è poco da fare. E direi agli amici all'ascolto, chiedete ai vostri figli, alle vostre figlie, ai vostri bambini, e vi diranno tutto di lei. Grazie mille, guarda, per me è veramente un onore essere qui oggi, davvero. Senti, allora diamo la parola a Mafi, prima al dottor Bruno. Sì. Perché, come è nata la canzone? L'ha scritta lei? Quando e quanto ci ha messo anche? Le è venuta di getto? Allora, la canzone sì, è venuta di getto in un modo un po' inconsueto. Ero sul treno, in un viaggio di ritorno, e leggevo in modo ripetitivo le circolari del Ministero della Salute, sempre riguardo del virus pandemico, sì. Quando mi sono reso conto che la prevenzione è un obiettivo sicuramente da raggiungere attraverso la corretta gestione dell'informazione. Cosa vuol sì. dire? Affinché l'informazione viaggi, quello che poi si vedrà anche un po' nel video, sotto forma di questo camice ballerino che va avanti dal medico all'insegnante, alla bambina e così via, perché questa informazione viaggi, bisogna utilizzare gli strumenti comunicativi più idonei per ogni fascia. Quindi per i giovani cosa meglio della musica? Ed ecco perché abbiamo provato questo tipo di esperienza musicale per trasferire questo tipo di informazione. Che arriva ai giovani, ai meno giovani e ai bambini, vogliamo mandare questo messaggio trasversale. Mafi, ma sì. Quando il dottor Bruno ti ha detto cantami una canzone sulla prevenzione, cosa hai detto? Questo è impazzito. Io sono molto contenta, come ho detto anche prima, di partecipare a questo progetto, anche perché soprattutto il pubblico, diciamo, il destinatario, diciamo, di questa canzone è il pubblico dei giovani, che è in primo luogo il mio pubblico, quindi insomma io mi sentivo assolutamente parte di questa cosa, mi è servito e sono contentissima di farlo, e penso tra l'altro che chi meglio dei ragazzi debba essere, diciamo, il destinatario di un progetto del genere, perché sono i ragazzi proprio nelle scuole, siamo noi che dobbiamo cercare di applicare queste semplicissime regole per far sì, insomma, di stare un po' meglio e di combattere questo maledetto virus dell'H1N1. Tra l'altro volevo dire, insomma, Stefano, che è un dottore favoloso, io e lui lavoriamo insieme, collaboriamo insieme musicalmente parlando, e per questo motivo ci siamo anche trovati su un sound un po' diverso, abbiamo cercato di collegare insieme musicalmente il sound un po' più black, una voce un po' più soul, insieme ovviamente a un ritmo totalmente rappato, che è classico della musica che ascoltiamo nei ragazzi. Quante marce in più ha questa Mafi? Come dottor vedete, Bruno, ho selezionato il talento giusto per portare questo progetto, per farlo avanzare, mi sono rivolto a... Senta, dottor Bruno, ma lei ha fatto anche il conservatorio? Assolutamente sì, io sono un contentissimo diplomato secondo il diploma tradizionale, come si faceva un tempo, del conservatorio. Ho studiato pianoforte nella mia città di origine, che non è Milano ma è Bari, e ho cercato sempre di continuare questa duplice attività in modo tale da poter arricchire anche la mia disciplina, la scienza, con quel versante artistico che fa molto bene. Allora invito Mafi ad ascoltare invece i brani che hanno aperto questa iniziativa, quello di Andrea Vitali, di Alberto Pellai e Flavio Mazzone. Li riascoltiamo rapidamente insieme, approfittando anche dell'attenzione e dell'esperienza, devo dirla, di Mafi. Andiamo. H1N1 con l'aereo e con il treno, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno. Uno, lavati le mani anche molte volte al giorno. Due, usa il fazzoletto per tossire e starnutire. Tre, se ti fa mal la gola evita lavoro e scuola. Quattro, evita gli sbalzi di temperatura. La mia scuola resta senza l'antipatica influenza, ed un pugno al virus do grazie a quello che io so. Al virus un pugno io do grazie a quello che io so. Con buon senso, educazione, ne ridurremo la diffusione. Davanti al naso e il fazzoletto, le mani sotto il rubinetto. Allora, queste canzoni le potete come sempre riascoltare sul sito di Radio 24, potete esprimere la vostra preferenza, lo state già facendo numerosi, naturalmente l'invito ai colleghi del dottor Bruno di allearsi. Assolutamente, assolutamente. Con musicisti o cantanti, non ci sono tante mafi, ma insomma, mafi, bisogna... è bellissimo sentire che siamo tutti insieme per un unico obiettivo, ecco, questo è l'importante. L'unione fa la forza. Entusiasmo. Allora, tutte le regole le trovate sul sito di Radio 24, insomma scendete in campo anche voi per cantare in musica alla prevenzione e se non siete medici, non siete musicisti, andate sul nostro sito a esprimere la vostra preferenza. Dottor Bruno, grazie e complimenti. Grazie a lei. Mafi, ricciolina mia, un bacio. Un bacio a tutti voi di Radio 24, grazie mille. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Pronto soccorso. E noi riprendiamo il tema del giorno, parliamo di disfunzione erettile, un problema che abbiamo detto subito non riguarda solo l'uomo ma deve coinvolgere la coppia, quindi coinvolgere anche la donna. Scusami, posso dirlo quello che ha scritto un ascoltatore, sì. Ma la disfunzione erettile è quella del coccodrillo, che ascoltatori abbiamo? Mario da Cuneo, lo vuoi possibile. Come coautore? Lo voglio come coautore. Allora Mario, le abbiamo già trovato un lavoro per questo sms al 349-238-6666. Tra l'altro, Alessandra, tu porti in tournée lo spettacolo Sesso, grazie tanto per gradire, della premiata ditta, direi, esatto. Rame Fo, ditta per tutta la famiglia, tutta cioè la Jacopo, famiglia. Anzi Jacopo è stato il primo a scrivere su questi argomenti, no? Sulla sessualità, eccetera. E poi la Franca ha messo in scena da sola questo monologo che io ho ripreso, molto divertente. Un testo di 10 anni fa, ma ancora attuale, perché ne parlavamo prima tra di noi, insomma, la sessualità e l'ironia anche sul sesso è sempre un argomento giovane, non invecchia mai, perché siamo un pochino pieni di tabù. Infatti tu mi dicevi prima, è coraggioso parlare di questo argomento della disfunzione erettile, proprio perché si fa fatica a parlare ancora di problemi, certo, sessuali. E io penso che, come in tutte le cose, come dico anche nel libro sull'autostima, un po' di distacco ironico anche dai problemi può aiutare ad affrontarli in modo diverso. Sentiamo il professor Gentile cosa ne pensa. Professore? Certamente sì, sicuramente bisogna che ci sia un cambio di attenzione al riguardo, insomma, non dimentichiamo che poi soprattutto la salute sessuale, come lei diceva, è un aspetto importante della salute generale. E sicuramente la disfunzione erettile naturalmente è un sintomo che ci dice che qualcosa nel nostro organismo non va, qualcosa sta succedendo, sta cambiando, quindi è un nuovo modo di confrontarsi, di guardare a questo disturbo e peraltro è facile capire questo, perché siccome l'erezione è sì un evento complesso ma prevalentemente di tipo vascolare, la cosa più semplice per esempio che sia secondaria ad una patologia che danneggia il sistema vascolare, quale diabete, ipertensione, arteriosclerosi, obesità, oppure per esempio pensa a dei fattori di rischio, quali fumo, sedentarietà, stress, sovrappeso, e quindi è bene dire che a volte precede anche di 2 anni altre patologie, quali un infarto, si è visto, per cui è bene naturalmente accostarsi a queste tematiche con un occhio diverso, in maniera diversa, e capire che questo non riguarda solo l'individuo in quanto tale, ma la coppia. Infatti, professor Gentile, sia la Società Italiana di Andrologia si è alleata con Onda, l'Osservatorio per la Salute sulla Donna, proprio per cercare l'aiuto, la complicità delle partner, delle compagne, di uomini che stanno vivendo questo problema. Assolutamente sì. Noi sono moltissimi anni, sono ormai più di 10 anni che facciamo una campagna, cerchiamo di diffondere la cultura andrologica, però sentivamo il bisogno di andare oltre, partendo dal fatto e dall'assunto che spesso è la donna che spinge l'uomo ad occuparsi della propria salute e partendo dal fatto che quello che riguarda la sfera sessuale è un qualcosa che deve unire, non dividere, deve unire la coppia, quindi il problema va affrontato insieme, quindi far leva sulle donne perché spingano il proprio compagno, il proprio marito, il proprio partner ad aver cura di sé, perché questo poi si traduce in un benessere personale, ma soprattutto in un benessere della coppia. Andiamo a Fernando dalla provincia di Foggia. Fernando, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci racconti? Allora, c'ho problemi di, non so se è sovrappeso che può incidere su questo fatto, poi mi sono operato al melanoma. Può influire questo fatto? Allora, professor Giammusso, il sovrappeso può essere un fattore che incide? Sicuramente. Insieme ad altri? Insieme ad altri, e in linea di massima possiamo dire, come già accennava il professor Gentile, che i fattori di rischio per la disfunzione erettile in qualche modo coincidono con quelli che si accompagnano alle malattie del cuore e della circolazione. Il sovrappeso certamente è una condizione, diciamo in generale la sedentarietà, perché è dimostrato che l'attività fisica correla in maniera molto positiva con la funzione, con una buona funzione erettiva. Ma se alla sedentarietà si accompagna l'obesità, soprattutto quella addominale, certamente il fattore di rischio è molto più significativo nel determinare disfunzione erettile. È a rischio chi fuma, per esempio, e c'è una correlazione con la durata del vizio del fumo, quindi chi comincia prima ha un rischio maggiore, e c'è una correlazione anche col numero di sigarette che si fumano. E va ricordato che smettere di fumare nell'arco di breve tempo può dare dei miglioramenti assolutamente visibili della funzione erettiva, ma dobbiamo anche ricordare che smettere troppo tardi potrebbe non consentire un pieno recupero. È a rischio il diabetico. Più il diabetico insulinodipendente rispetto al paziente con diabete di tipo 2, quello che si cura con le terapie orali. Sì. E anche in questo caso è molto importante la durata della malattia e il grado di compenso, quindi il diabetico deve sapere che tenere a bada la propria glicemia, controllandosi e facendo per bene le cure, seguendo la dieta, è molto importante per prevenire i danni sull'erezione. E questi sono i principali fattori di rischio, ricordiamo anche l'ipertensione. L'ipertensione di per sé provoca danni all'erezione, ma anche alcuni farmaci per l'ipertensione possono avere effetti collaterali, in particolare i diuretici e beta bloccanti, quindi il soggetto iperteso è doppiamente a rischio. E poi ci sono anche dei fattori di rischio psicologici, ci sono dei profili psicologici perché quando parliamo di fattori di rischio vascolari ci riferiamo al danno organico dell'erezione, sì. Però ci sono alcuni profili psicologici che possono esporre a problemi erettivi su base psicologica, soggetti particolarmente sensibili. A questo proposito è stato fatto uno studio molto interessante in Finlandia che ha dimostrato come vanno più facilmente incontro a problemi di erezione su base psicologica quei soggetti che hanno avuto dei genitori con un rapporto non positivo nei confronti della sessualità, quindi genitori particolarmente repressivi o che parlavano poco di sessualità. In questo caso il giovane che è cresciuto con un'educazione un po' repressa sulla sessualità più facilmente va incontro a problemi nella sfera sessuale. Alessandra, abbiamo Carla della provincia di Verona e poi ti do la parola. Carla, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti, Carla? Allora, intanto benvenuta perché è la prima ascoltatrice donna che interviene. La SIA sta cercando proprio le donne per farsi dare una mano. Insomma, insomma mio marito non avrebbe mai parlato. Ma questo, è vero non Alessandra? Abbiamo dubbi. Non abbiamo dubbi, Carla. Allora, mio marito ha 66 anni, soffre di ipertensione. E il suo problema è che ultimamente, diciamo negli ultimi 2 anni, lui ha subito l'erezione. Però dopo 2-3 minuti si affloscia. Allora lui si agita, diviene nervoso e di conseguenza non fa più niente. Certo, Carla. Allora ho detto va dal dottore. Mandarlo dal dottore è impossibile. Perché si vergogna e a fatalità noi abbiamo anche una dottoressa. Dico, ascolta, dico, dall'andrologo bisogna. Gli uomini hanno proprio poca di noi abbiamo il ginecologo ma loro non la capiscono. Professor Gentile, una battuta poi riprendiamo Carla prima dei mercati. Allora, sì, ma come mai siete mi così? Mi dispiace perché non c'è una cultura medica in questo senso nell'uomo, però soprattutto se si preoccupa e si vergogna col medico e non stiamo a riflettere su quanto questo sia negativo, vabbè, pazienza per il momento. col medico di medicina generale si rivolgano direttamente a uno specialista andrologo, con lui ci dovrebbe essere più confidenza, lui tratta questi problemi. È un peccato vivere questa ansia, questa situazione difficile, visto che è una coppia vitale e quando con niente si può risolvere. Senta, d'altra parte voi avete fatto queste campagne molto belle in cui anche avete messo a disposizione centinaia di esperti al telefono, e quindi in qualche modo già il primo contatto telefonico aiuta a prendere coraggio per poi successivamente recarsi da un esperto, giusto professore? Assolutamente sì, peraltro molti dei pazienti che telefonavano e trovavano un esperto che rispondeva ai loro problemi, ai loro quesiti, e chiedevano: ma come faccio a rintracciare un andrologo, uno specialista sul territorio? È ovvio che non era etico dire fai così, certo, rivolgete a questo o a quell'altro. Però la Società Italiana di Andrologia un pochino mette in condizione, informa, c'è un sito web, mette in condizione di poter, di poter insomma, avere un aiuto. Stiamo accompagnando gradualmente, sì, Alessandra, no, che fatica. Fatica. No, ma mi accorgo che in effetti quello che dice poi Franca Rame, che dicono Franca Rame e Dario Fo nello spettacolo, è vero, no? Cioè, io dico, si osserva questa cosa, questa differenza tra quello che millantano spesso gli uomini, come appaiono, io l'ho fatto oggi dalle 2 alle 5, l'ho fatto 9 volte, che poi invece quando li prendi da soli nudi nel letto è tutta un'altra cosa, cioè, no? La disfunzione erettile e l'eiaculazione precoce, la incapacità eiaculandi, la paura della vagina dentata, lo sapevi che no, c'è la anche paura, sì, ci sono ragazzi che pensano se poi quando lo coso dopo non me lo professor dà più indietro. Professor Giammusso, lei questa paura vero, l'aveva mai sentita? Sì, c'è. Diverse volte. Anche vede, diverse volte. Non e dico allora, mica delle scemenze. Allora, io, Non ne avevamo non dubbi. Vero, vero. Allora, noi, e poi, scusa, mi emerge da questo quadro che faceva anche il medico, no? Che ci sono un sacco di problemi che riguardano. Cioè, non è che magari anche noi donne siamo superficiali e pensiamo che sia una roba on-off, no? Mm. L'erezione, tipo accendere e spegnere la luce. Invece è una roba delicata, complicata, e c'è il diabete, c'è la repressione della famiglia, e c'è il fumo, l'ipertensione. Cioè, sta su per grazia divina, cioè non è... Ecco, siamo tornati, oggi parliamo di disfunzione erettile insieme al professor Giammusso, al professor Gentile e ad Alessandra Faiella. Vorrei chiedere al professor Giammusso, in modo che diamo una definizione, qualche defaillance sotto le lenzuole è permessa, no professore? Sì. Non c'è da preoccuparci. Quando invece si può pensare che sia arrivato proprio il problema e che si tratti di disfunzione erettile? La definizione di disfunzione erettile prevede che si tratti di una condizione ricorrente, quindi non un fatto isolato, e di una condizione di incapacità a ottenere o a mantenere l'erezione per un rapporto soddisfacente. Generalmente il primo segno della disfunzione erettile è proprio la difficoltà a mantenere l'erezione, quindi il fatto di non riuscire a completare il rapporto perché si perde rigidità durante l'atto sessuale è già di per sé un segnale di disfunzione erettile e deve indurre a consultare il medico, perché è peraltro dimostrato che prima ci si arriva alla diagnosi e alla terapia migliori sono i risultati. Viceversa però non è il caso di allarmarsi se avviene un fenomeno occasionale, come diceva prima giustamente lei, perché questo è assolutamente fisiologico e quindi non costituisce una vera e propria disfunzione erettile, oppure se c'è qualcosa che non va in altre forme di erezione, ad esempio nelle erezioni spontanee. Spesso, soprattutto i giovani si allarmano perché magari vedono che le proprie erezioni del mattino, al risveglio, non sono come erano prima. Questo non necessariamente significa che c'è di mezzo una disfunzione erettile, perché le erezioni spontanee possono variare anche per fenomeni transitori senza che questo abbia un significato patologico. Professor Gentile, noi sappiamo che in media un uomo prima di rivolgersi allo specialista ci mette circa 2 anni, no? In questi 2 anni... Già sei ottimista. Anni. I dati dicono così, vero professore? Sì. 2 anni. Però ci sono anche uomini, mariti, come il marito di Carla, che proprio di fronte al problema non vogliono affrontarlo. Iperteso, il marito di Carla, potrebbe parlare ad esempio con il proprio medico e cambiare magari la terapia? Potrebbe essere causato dal farmaco per... Come no, sicuramente sì. Sia l'ipertensione in sé per sé può essere la causa del deficit rettile sia la terapia, come bene diceva prima il professor Giammusso. Sicuramente parlare con il medico significherebbe avere una chance per recuperare questa funzione, perché o col cambio del farmaco che riguarda l'ipertensione o aggiungendo un altro farmaco favorevole o che riesce poi a sostenere l'erezione. Il problema è che, a mio avviso, la donna è abituata, ancora oggi dobbiamo dire così, è abituata al confronto con il medico, lo specialista, perché sin da ragazza è informata su quelle tematiche che riguardano la propria sfera genitale riproduttiva. E invece l'uomo si trova a non avere questa abitudine al confronto, sì, al medico, assolutamente. Dopo i primi anni di vita naturalmente si ritrova magari a 20-30 anni in un attimo senza aver mai parlato o essere stato visitato o che qualcuno abbia controllato quell'apparato genitale. E poi dove piccoli problemi poi possono diventare dei problemi enormi. E poi il fatto che l'uomo oltre deve anche superare, e soprattutto le vecchie generazioni, antichi tabù ancestrali per quanto riguarda l'apparato genitale, un concetto distorto di virilità, il problema della fertilità, ecco, fino a pochi anni fa si pensava che fosse solo il fattore femminile responsabile di fertilità, guai a pensare che un uomo poteva essere adospermico. Certo. E se pensiamo che il 40% invece della causa di infertilità, che è abbastanza frequente, l'infertilità è dovuta al fattore maschile. E quindi non assolutamente l'uomo non è educato alla cultura della salute, tantomeno a quella sessuale. Ma perché? Per i motivi che abbiamo detto, no? Tabù, sì, ancestrali. Le mamme moderne, Alessandra Faiella, mamma di un bambino di 8 moderna. Anni, e quindi iniziate anche noi, no? Noi mamme dobbiamo educare quando, i nostri figli. Cioè, adesso non so se si può andare a parlare di questa cosa, non c'entra niente, ma il prepuzio, come si chiama, no? Che c'ha il filettino attaccato, sì, e io avevo paura che non venisse abbastanza indietro, sono andata subito dalla pediatra, poi in realtà andava bene. Brava. Perché non lo so, mi sembra una cosa, quindi un prepuzio, un frenulo corto, sono cause banali, un varicocevo dall'infertilità, a volte alcuni ragazzi hanno anche una malformazione congenita del pene allo sviluppo a 15-16 anni, che poi si è leggermente ricurvo. Sono tutte cose che lo condizionano, infatti, lo rendono fragile di fronte praticamente oggi poi invece a delle ragazze che hanno già una coscienza su questi problemi e quindi li affrontano con un altro spirito, per cui loro si trovano spesso a pagare dei momenti di ansia, ad essere esposti a problemi quali le malattie sessualmente trasmissibili, all'eiaculazione precoce per motivi come condizione medica, o la paura della vagina dentata, come ho già detto. Appunto, come dicevo prima, mi dispiace che io ho perso le prime battute, non mi arrivava la voce sua, che è stata un'apertura brillante, e poi io magari sono andato oltre già sulla condizione medica, ma sicuramente ci sono questi contesti sociali, insomma, con i quali bisogna confrontarsi. Sì. Andiamo a Roberta, che ci chiama da Milano. Buongiorno Roberta, benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno Roberta. Dottore. Allora, vediamo come possiamo aiutare il compagno di Roberta, immagino che chiami, esatto, per il suo compagno. Sì, e poi anche me di conseguenza, perché certo, magari poi mettete il dito appunto sui problemi dell'uomo, ma di conseguenza anche le donne a loro volta riflettono e magari le vivono più intimamente, per non poi pesare ulteriormente l'uomo. Mi è arrivato un messaggio da Marilena che ci scrive: anche questo ci tocca. Esatto. Ecco, per cui Alessandra Faiella sta prendendo appunti dagli sms che arrivano, perché è pronta per scrivere un testo. Roberta, veniamo a lei. Sì, premetto che noi abbiamo sempre avuto una sessualità molto bella, molto naturale, molto aperta, e quindi il problema che a un certo punto si è sviluppato da più di un anno ormai ci ha preso un po' in contropiede, entrambe come coppia. Il mio fidanzato si è rivolto al numero verde di cui avete parlato, sì, di conseguenza poi siamo andati insieme da un andrologo. Bravi. Si è dimostrato molto disponibile a parlarne, comunque a condividere con me nonostante il disagio ovviamente che provava. L'andrologo ha constatato che poteva essere un problema di frenulo corto, come sì, abbiamo anticipato. Il dottore ha fatto l'operazione, il problema comunque permane. Non so, il dottore sosteneva che poteva anche essere il problema coincidente con i tentativi di avere un bimbo che poi è arrivato, sì, e quindi poteva mettere in difficoltà mio fidanzato a livello di responsabilità. Il bambino poi è arrivato, però il problema rimane, io sono molto in difficoltà perché nel contempo il problema ha bloccato anche me e mi sento anch'io adesso molto a disagio e non riusciamo a uscirne, insomma. Professor Giammusso, professor Gentile, Roberta ci ha raccontato una storia di, potrei dire, ordinaria quotidianità, perché sono tante le storie simili a quelle che ci ha raccontato Roberta. Anche quando si cerca di affrontare il problema, non sempre si riesce a risolvere in tempi sufficientemente brevi, perché non si radica all'interno della coppia, trasformandosi in un disagio proprio nella relazione. Prego, Bruno. Sì, questo è vero. Le complicazioni psicologiche che in una coppia si verificano quando c'è un problema del genere possono rendere più complesso il trattamento. Io, come consiglio, anzitutto direi che se i tentativi fino adesso non hanno dato buon esito, consiglierei alla coppia di insistere con la consulenza andrologica, perché molto probabilmente c'è da approfondire la diagnosi, quindi capire meglio quali sono stati i fattori scatenanti. Però vorrei anche aggiungere che se non è mai stata affrontata una terapia farmacologica, probabilmente è il tempo di farlo. Esistono delle terapie che possono rimuovere alla radice il problema, ma intanto intervenire sul sintomo per consentire alla coppia di recuperare l'intimità, e questo lo si può fare con i farmaci che oggi sono disponibili per la terapia della disfunzione erettile, probabilmente potrebbe essere la soluzione più immediata e che potrebbe alleviare il problema psicologico che si è determinato. Professor Gentile. Condivido quanto ha detto Giammusso, ovviamente. Potrei aggiungere questo, che spesso la soluzione non è così semplice, però non bisogna scoraggiarsi, perché magari anche una consulenza psicosessuologica può aiutare moltissimo. Non si tratta di iniziare una terapia, ma si tratta di focalizzare quali sono gli aspetti che stanno alla radice del problema quando la coppia si trova già in una situazione come quella che descriveva l'ascoltatrice. Per quanto riguarda la diagnosi, a volte sì, si tratta di approfondire, perché spesso si complica con un'eiaculazione precoce, o l'una sta alla base dell'altra. Sicuramente quel periodo di ansia, di stress per la gravidanza, la gravidanza da raggiungere, certo, ha giocato un ruolo scatenante, ma ci può essere dell'altro. E quindi in una situazione così che si è complicata, ricorrere a dei farmaci, come diceva Giammusso, capire qual è il primo vero movente, e poi ricorrere a una terapia farmacologica e anche uno scambio con uno psicosessuologo aiutare moltissimo. E poi fatevi aiutare dalle vostre compagne. C'è una ricerca molto interessante fatta dall'ISPO, e in linea abbiamo la dottoressa Paola Tuè, ricercatrice. Buongiorno. Buongiorno. 30 secondi per confermare quanto abbiamo detto. I dati lo dimostrano: le donne sono attente e responsabilmente pronte ad affrontare questo, ad accompagnare il loro partner nel percorso per la soluzione di questo problema. Cosa dicono i dati? Sì, assolutamente lo confermo. Il 66% delle donne italiane intervistate sostiene che affiancherebbe e sosterrebbe in tutto il proprio partner, qualunque soluzione o decisione la prenderebbero insieme. Ma una percentuale ancora più alta, il 71% delle donne intervistate, dichiara che si rivolgerebbe insieme al proprio uomo proprio ad uno specialista, direttamente ad un andrologo o a un sessuologo. Quindi dottoressa Tuè, e chiudiamo con lasciandola una battuta ad Alessandra, sì, insomma, l'altra metà del cielo, deve collaborare. Io sono qui per alleggerire, quindi posso consigliare alle donne alcune strategie, per esempio di non parlare troppo durante l'atto sessuale, perché anche inserti verbali eccessivi e maldosati durante l'atto sessuale hanno un effetto devastante. Quindi pronunciare frasi durante l'amplesso tipo "hai chiuso il gas" o "domani viene a cena mia madre" possono avere un effetto disastroso. E agli uomini, da tutto quello che è emerso, direi che i napoletani avevano capito il segreto, quantomeno per quello che riguarda il problema psicologico, cioè il segreto antistress. Bisogna svuotare la mente, hanno anticipato lo zen i napoletani, perché loro dicono lo zen, bisogna rilassarsi, svuotare la mente deve essere vuota. O cazzo, non vuole pensieri. Ringrazio il professor Giammusso, il professor Gentile, Paola Tuè, grazie Alessandra. Prego. Speriamo di vederci presto. Grazie, e spero che questa puntata abbia sortito qualche effetto. Insomma, rivolgetevi all'andrologo. E prima di salutarvi voglio segnalarvi e commentare con voi una bella iniziativa con cui il Comune di Milano decide di suonarle, come diciamo noi a Radio 24, all'influenza A. Si chiama Operazioni Mani Pulite e Sane, e già il titolo la dice lunga. Ma in linea con noi abbiamo l'assessore alla salute del Comune di Milano, Gianpaolo Landi di Chiavenna. Assessore, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, l'iniziativa prevede l'installazione in luoghi pubblici di dispenser con detergente per le mani. Sì, abbiamo installato, sono già installati 70 dispenser che sono stati messi a nostra disposizione gratuitamente da una società di Bergamo, Cartemani, che voglio pubblicamente ringraziare. Sono 70 dispenser che sono stati allocati negli uffici pubblici della città di Milano e alla questura, agli uffici immigrazione, perché come tutti sanno le mani sono dei portatori eccezionali di microbi e di batteri in un momento dove la situazione dell'influenza, sia quella stagionale che quella H1N1, sta ormai toccando dei picchi abbastanza significativi, è necessario usare anche la precauzione di avere sempre delle mani pulite, quindi detergersi le mani non è solo educazione quotidiana che noi auspichiamo diventi parte proprio comune del ragionamento quotidiano di ogni singola persona, ma dobbiamo aiutare la città di Milano ad essere più sana, e quindi anche questo strumento è utile per cercare di ridurre quello che può essere l'impatto della trasmissione influenzale. Mi piace, una bellissima idea. A disposizione quindi questi dispenser per lavarci le mani qualche volta di più. Certamente sì, tenete conto che i dati ci dicono ancora che 2 persone su 3 dopo aver utilizzato i bagni pubblici non si lavano le mani. Ecco, quindi dobbiamo lavorare molto sull'educazione sociale. Grazie assessore per essere stato con noi, buona giornata. Grazie molto, buon lavoro. E per oggi è tutto, l'appuntamento torna domani dopo il GR delle 11, lavatevi le mani mi raccomando, buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.